Maestro, maestro, maestro, dimmi. Lo so, è un casino. Fa casino adesso. Sì. Ma... Sì, col cavo sono entrato. Non lo so, aspetta che provo ad abbassare il volume, aspetta un attimo. Vabbè, vedi mentre suoniamo che cosa senti, dai. Va, chiudo la chiamata, dai, chiudo la chiamata. Sì, lo so, ma c'è sempre stato sto problema purtroppo. Sì. Sì. Ok. Windows 10. Ma dove c'è suoni, scusami. E lì se clicco col tasto destro mi dà impostazione, aspetta, mi dà apri mixer volumi, apri impostazioni audio, audio spaziali, Windows Sonic per cuffie, suoni e risolvi i problemi di audio. Questo mi dà. Apri mixer volume, apri impostazioni audio. Ok. Aspetta un attimo. Schermo audio. Autoparlante, risoluzione di problemi. No. Mi dà solo autoparlante, dispositivi. Sì.